ci assieme noi patria delle bombe ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto tu pianto padre che bacio questa mano sante oh figlio senza regno e fuggente una voce sentì che mi diceva vieni con me sarò tua guida era lì sia ben eletta ed io cadeva fronto Gira, gira.

volontà. Siamo pronti ad ogni evento. Se lo straniero vince per le nozze e se gli perde, pensa per gli vento. Io preparo le nozze di alle esequie, le rosse lanterne di festa e bianche lanterne di lutto. Gli incensi e le offerte, gli incensi e le offerte, dovete di fare la dona, ci mascate di beta, anch'io lo sta male. I ponti che cantano, i ponti che gemono, e tutto quanto il resto secondo il rito minuzioso, minuzioso, infinito. Tornar laggiù, tutto cinto di La pace ridà, la pace ridà. eravate divenite. Udite trombe, altro che pace, ha inizio la cerimonia. Abbiamo a goderci l'ennesimo supplizio. Grow.

Si spense